decima prova via Chuck. Tutta qua, tutta qua, Juan, Juan Carlos, signor Matanza, esatto, pinto sta, tutta qua, Juan, Juan de Carlos. Il nero mi ha fregato, oh. Ho il fegato spappolato, atto. Dove cerco il mio ideale, ah. Il nero nella valle, la birra nel boccale, il nero mi comanda, Anda. Mi hanno escluso dalla banda, il capo me l'ha detto, etto. Sono ieto dal ghetto, è ieto dal ghetto, è ieto dal ghetto. È finita la festa, chissà quanta gente è rimasta. Quanto maranza che gioca nella nastra, amico. Paga la carta e bevi la tazza. No, non mi piace Barbera. Apri la gola che il vino ti passa. O trinchi di nero, paghi di nero. Nero! Gonzo, hai perso di nuovo. No, non mi piace il Barolo. Sbronzo, apri la gola che ti entra nel foro. O trinchi di nero o l'occhio da cieco. Nero il Barbera, nero il Barolo. Ehi, viola la mia faccia, una faccia al metanolo. Voglio bere tanto nero. Voglio bere tanto nero. Voglio bere tanto nero. Voglio bere tanto nero. Yeah. Anche Cristo beve nero, anche Ciccio beve nero. Io che sono musulmano vedo il vino da lontano. Allora dammi il vino come preme. Non è vero che Maometto era semio. Io anche che era netto credo. Dammi sempre tanto nero perché... Anche Cristo beve nero, anche Ciccio beve nero. Io che sono musulmano vedo vino da lontano. Allora dammi il vino come premio. Non è vero che Maometto era semio. Nero, ah. Non è vero che non voglio il nero. Non è vero che non voglio il nero. Non è vero che non voglio il nero. Non è vero che non voglio il nero. Voglio bere tanto nero. Voglio bere tanto nero. Voglio bere tanto nero. Voglio, ah, bere tanto nero. Beve il nero, anche Uzi beve il nero, anche 24 beve il nero. Pubblico zero beve il nero. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Che bella festa giovane. Bella festa giovane. Bella festa giovane. Proprio, proprio tanto nero.